Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Eccoci qua, questa era la sigla d'apertura per questa trasmissione che è Zardins Magnetics, in diretta radiofonica tutti i giovedì, oggi 28 agosto 2025, abbiamo fatto due settimane di pausa e quindi ecco qua che riprendiamo la diretta, trasmettiamo da Radio Onde Furlane come appunto già detto ogni giovedì dalle 20 alle 21.30, ma andiamo subito all'ascolto di questa band, cioè di questa band musicale che ora andiamo all'ascolto. Loro sono gli statunitensi Warcry, direttamente dall'Oregon, Portland, la cittadina, dal loro album datato 2007 che si chiama The Program, album uscito nel 2007, comunque nel loro tour europeo del 2015 sono stati ristampati tutti gli album di questa band, che sono quattro, dall'italiana a G-Punk, appunto nel 2015. Comunque, ascoltiamoci War Cry. Ecco, un bentornato, un bentornati, bentornate a tutti voi che ascoltate anche da questa parte della nostra squadra qua di Zardins Magnetics. Come è stato detto già poco fa, ritorniamo in diretta oggi 28 agosto qui, come insomma d'ora in avanti praticamente ogni giovedì. Ci ascolterete per questo spazio così autogestito, che noi, cioè, noi realizziamo qui già da un po' di anni. Noi che parliamo saremmo l'assemblea permanente contro il carcere e la repressione, di Friuli e Trieste. E, io qui adesso praticamente voglio solo farvi un breve così ragguaglio su quelli che saranno così i contenuti che andremo così a svolgere questa sera. Come avete visto nella frase che abbiamo lanciato così di promozione, il furore dei rustici, no? C'è questo articolo che andremo un po' a leggere insieme sul numero 77, ovvero estate 2025 di Nunatak, la rivista di storie, culture, lotte della montagna. L'articolo di Paul Friedman, è un articolo che risale un bel po' di anni fa. Comunque è stato tradotto e curato dai redattori di Nunatak, si intitola Rivolte e resistenze contadine tra Medioevo e Modernità. Andremo a vedere insomma quello che si sostiene in questo articolo, è praticamente una revisione dell'impostazione classica che si ha delle rivolte delle jacquerie contadine, quello che sono le ragioni che insomma normalmente vengono giudicate, che sono state giudicate così un po' irrazionali, un po' incoscienti, ecco, soprattutto della cultura contadina in Europa, ecco. Andremo a vedere un po' questo aspetto e vari annessi e connessi che poi vi dirò man mano. L'ultima parte invece della puntata è riservata sicuramente alla mobilitazione per la Leonardo SPA, fabbrica di morte. Nient'altro, questo insomma non vi anticipo altro. E, prima di ridare la linea alla musica, io però vado a leggervi un contributo insomma che è apparso, no, cioè, questo è il contributo che io sto guardando sulla pagina di Radio Blackout, però la notizia si è diffusa su vari, anche sui media diciamo nazionali, e siccome questo presidio che si farà Verità e Giustizia per Danilo Rial è in contemporanea praticamente con quello con adesso insomma che stiamo parlando, noi trasmettiamo come è stato detto dal Friuli, Treviso è abbastanza vicino. Questo giovedì 28 agosto alle 19 si terrà il presidio Verità e Giustizia per Danilo Rial davanti al carcere di via Santa Bona Nuova a Treviso. Cosa è successo? C'è questo è una struttura sì per minori no no una struttura un carcere per minori e, praticamente questo ragazzo di 17 anni, minore non accompagnato tunisino, deceduto il 13 agosto all'ospedale di Treviso dopo che aveva tentato il suicidio dentro il penale, no? E, era stato arrestato 9 agosto a Vicenza dopo vari tentativi di furto, una fuga dalla polizia in evidente stato di agitazione, dicono i soliti ben informati. Immobilizzato con il taser, era stato trasferito nel minorile di Treviso, dove secondo la versione ufficiale avrebbe tentato il suicidio poche ore dopo. E così il comunicato parla appunto del fatto, oltre a questo molto grave insomma, no beh, oltre a questo intendevo dire, oltre al fatto che un suicidio in un minorile è una cosa abbastanza fuori dalla media, e infatti l'ultima volta che un ragazzo si era tolto la vita in un carcere minorile era il 2003, 22 anni fa, inizia così il comunicato, ecco. E in più questo diciamo così, questa vittima non verrà conteggiata tra l'altro nel complesso già fuori dalle grazie diciamo dei suicidi nei carceri italiani, comunque nelle carceri italiane. Comunque vado adesso veloce. Un'altra cosa che mi ha colpito è che i familiari che si trovano in Tunisia sono stati messi dalle autorità sono stati messi di fronte alla o vi riprendete la salma adesso o dovete aspettare chissà quando, quindi hanno dovuto accettare insomma che la bara fosse spedita subito, senza, quindi non è stato possibile agli avvocati insomma fare richieste, perizie di parte eccetera, ecco, questi altri colpi bassi, no, che fanno la repressione. E in più un'altra cosa brutta, dice il comunicato: troviamo sconvolgente che proprio mentre Danilo era ricoverato in ospedale in fin di vita, a Ferragosto, 13 agosto, il questore di Vicenza abbia convocato una conferenza stampa per elogiare il lavoro encomiabile degli agenti, un gesto che mostra quanto sia radicata la logica della disumanizzazione. Un ragazzo in fin di vita sparisce di fronte all'occasione per celebrare l'efficienza repressiva. Ecco, era allora questo presidio insomma che si sta tenendo in contemporanea con Zernis Magnetics fuori dal carcere di Treviso, oggi insomma giovedì 28 agosto alle 19. Gli stati dell'Ovest, inquieti alle prime avvisaglie del cambiamento, Texas e Oklahoma, Kansas e Arkansas, New Mexico, Arizona, California, una singola famiglia lascia la terra. Pa si è fatto prestare soldi dalla banca e adesso la banca vuole la terra. La società immobiliare, ossia la banca quando possiede terreni, sulla terra vuole trattori, non famiglie. Un trattore può essere cattivo? La forza che scava i lunghi solchi può avere torto? Se questo trattore fosse nostro, sarebbe buono? Non mio, nostro. Se il nostro trattore scavasse i suoi lunghi solchi nella nostra terra, sarebbe buono? Non la mia terra, la nostra. Allora potremmo amare questo trattore quanto abbiamo amato quella terra quando era nostra. Ma questo trattore fa due cose: scava la terra e scaccia noi dalla terra. Non c'è molta differenza tra questo trattore e un carro armato. La gente viene minacciata, sopraffatta, ferita da entrambi. È una cosa su cui occorre riflettere. Un uomo, una famiglia scacciata dalla terra, questa carretta arrugginita che arranca sulla nazionale per andare all'Ovest. Ho perso la mia terra, un singolo trattore ha preso la mia terra. Sono solo e sono smarrito, e nella notte una famiglia si accampa in un fosso e un'altra famiglia arriva e tira fuori le tende. I due uomini si accoccolano sui talloni. e le donne e i bambini ascoltano. Ecco il nodo per voi che odiate il cambiamento e temete la rivoluzione. Vi conviene tenere separati questi due uomini accoccolati, fare in modo che si odino, che si temano, che diffidino l'uno dell'altro. È questo l'embrione della cosa che temete, è questo lo zigote, perché adesso ho perso la mia terra, è cambiato. Una cellula si è scissa e dalla sua scissione nasce la cosa che odiate. Abbiamo perso la nostra terra. Ecco dov'è il pericolo, perché due uomini non sono soli e confusi, quanto può esserlo uno. E da questo primo noi nasce una cosa ancora più pericolosa. Ho poco da mangiare, più non ho niente da mangiare. Se la somma di questi fattori dà abbiamo poco da mangiare, allora la cosa è in marcia, il movimento ha una direzione. Adesso basta una piccola moltiplicazione e questa terra e questo trattore diventano nostri. I due uomini accoccolati nel fosso, il fuocherello, la carne di maiale a bollire in una pentola condivisa, le donne mute con lo sguardo impietrito, dietro i bambini che ascoltano con tutta l'anima parole che il loro cervello non capisce. La notte incalza, il bimbo è raffreddato. Tieni, piglia questa coperta, è lana, era la coperta di mia madre, usala per il tuo piccolo. È questa la cosa da bombardare. È così che comincia, da io a noi. Se riusciste a capire questo, voi che possedete le cose che il popolo deve avere, potreste salvarvi. Se riusciste a separare le cause dagli effetti, se riusciste a capire che Paine, Marx, Jefferson e Lenin erano effetti, non cause, potreste sopravvivere. Ma questo non potete capirlo, perché il fatto di possedere vi congela per sempre in io e vi separa per sempre dal noi. Gli stati dell'Ovest sono inquieti alle prime visaglie del cambiamento. Il bisogno fa da stimolo all'idea, l'idea all'azione. 500.000 di persone che si spostano nel paese, 1.000.000 di scontenti pronti a spostarsi, 10.000.000 che avvertono i primi sintomi di inquietudine, e i trattori che scavano solchi sulle terre abbandonate. Allora, come vi avevo annunciato, questa puntata, così, leggeremo insieme l'articolo di cui vi ho già detto prima, la troviamo su Nunatak, di cui abbiamo già altre volte saccheggiato i contenuti. Io per così cominciare ho letto un brano da Furore di Steinbeck, no? quello che è un romanzo, più che un romanzo, un'epica della migrazione forzata a cui furono costretti i braccianti, ridotti insomma sul lastrico dall'industrializzazione alla metà degli anni 30, insomma tra la metà degli anni 20 e la metà degli anni 30 negli stati dell'Ovest, in particolare in Oklahoma. E sì, davvero erano parole epiche, perché appunto il legame tra questo brano e il saggio, diciamo, di storiografia che è riportato e tradotto su Nunatak è, secondo noi, una reimpostazione, diciamo, di quello che è tradizionale così pregiudizio, ma può essere anche un'idea vaga che si ha dei contadini, dei nostri bisnonni, trisnonni, trisavoli, no? Bene o male, in cui parliamo, non dico del Friuli, ma anche, diciamo, anche dal resto dell'Italia, chi ci capisce in italiano, ecco, dato che parliamo in italiano, bene o male l'Italia è uscita dal mondo rurale abbastanza di recente, ecco, facciamo uno schema proprio brutale, diciamo col Novecento è partita l'industrializzazione, ma quello che era l'Ottocento, a parte delle isole insomma molto molto ristrette, era insomma, 100% mondo agricolo, no? Quindi un mondo che ci ha influenzato profondamente nella nostra così sociocultura complessiva, ecco. Non parliamo delle singole, no? Non entriamo nei dettagli, ecco, dei localistici, ecco. Però in generale, per quello che è appunto lo stivale, si può dire questo, ecco, che la cultura contadina, la cultura non scritta contadina, ha lasciato un segno profondo, no? Nel quello che siamo. È subentrato appunto questa industrializzazione, è subentrata forzatamente, e naturalmente poi è seguita anche una scolarizzazione bene o male di massa, piano piano, no? Quindi anche gli sfruttati, anche gli oppressi hanno cominciato a lasciare traccia scritta, no? Di quelle che erano le loro pratiche, e questi sfruttati, questi oppressi erano, diciamo, erano già, possiamo dire, urbanizzati, no? Nel Novecento erano quelli che si sono organizzati. Se partiamo anche qua per fare uno schema dal Biennio Rosso, da 100 anni fa, Biennio Rosso dal 19 così fino al 22, prendiamo un ampio intervallo di tempo, ma comunque lì c'era già un'organizzazione, diciamo, di tipo socialista, per riassumere, ma che era particolare, ecco, era una forma di organizzazione, fra virgolette, cosciente. Quello che viene prima è tutto ritenuto irrazionale, incosciente, ribellioni furiose, mettere a fuoco, insomma, i castelli dei signori feudali. E nient'altro, e poi battere in ritirata quando arrivavano le truppe, diciamo, a mettere a posto le cose. Non è proprio così, ecco. Questa qua è una impronta dovuta, insomma, a un'impostazione che è andata, appunto, che è la cui fonte è questo tipo di organizzazioni qui, che, di cui dicevo prima, urbane, industriali, appunto, degli operai, un certo tipo di operai, ecco, e quindi poi si sono accodati anche tutti gli altri storici, no? Chi ha voluto ricostruire, ecco. Io direi che mettiamo un pezzo e poi andiamo avanti. Questa è l'obiezione, rifiuto e condanna di distruzione. Sì, dicevamo di questo paradigma, no? Per cui i movimenti contadini, degni di nota, diciamo dagli storici ritenuti degni di nota, erano giudicati esplosioni irrazionali o dipendenti comunque dall'iniziativa sempre di classi più consapevoli e comunque cittadine, no? non della campagna. Una cosa a margine di questo discorso, non è che adesso, allora, questo tipo di mondo di cui parlavo prima, che è stato largamente, insomma, maggioritario nella realtà di lingua italiana, diciamo così, è scomparso, un dato di fatto, cioè non è che ritorna adesso in vita. Noi però, cambiando la prospettiva su questo problema storico, mettiamo in ordine, diciamo, questa cosa. Questo mettere in ordine è sì un cambiamento effettivo in noi, nel presente, perché se noi continuiamo a ritenere, appunto, che tutte le sommosse contadine del passato sono state esplosioni irrazionali, questo fa sì che poi noi andiamo a cercare, diciamo, le spinte, quelle che possono essere le spinte rivoluzionarie in altre parti, che sia, insomma, con altri criteri anche. Invece, mettendo in ordine questa cosa del passato, ci permette di avere un approccio che porta anche noi, anche in noi, un cambiamento nella quotidianità nostra, ecco, nel mettere in piedi le lotte o, insomma, forme di resistenza o pratiche di attacco, quelle che si vuol dire, insomma, nostre del presente in un'altra maniera. Ecco, questo era una considerazione che mi viene in mente. Allora, questo contributo di questo storico Paul Friedman, a un certo punto arriva, appunto, al fatto che lui dice, negli ultimi anni, si riferisce alla fine degli anni 90, molto è cambiato, la razionalità e l'uso delle risorse da parte dei contadini sono state rivalutate, anche alla luce del, insomma, sempre più manifestarsi, sempre più evidente del problema, grosso problema ecologico, no? E quindi sono state messe a punto anche forme di ricerca storica che hanno cercato di riesaminare quelle che sono gli elementi costitutivi della resistenza contadina, no? Allora, in particolare un autore come James Scott, col lavoro sul campo, anche sulle realtà contadine, diciamo, più vicine nel tempo, ovvero studi etnografici che lui ha compiuto in Malesia sui piccoli coltivatori di riso, e hanno messo in luce, appunto, questi tipi di approcci su alcune forme indirette di resistenza, che possono essere, appunto, l'evasione, la fuga, il sabotaggio e altre forme di non collaborazione, e queste qua sono forme quotidiane di resistenza, dice James Scott. D'altra parte, nel suo lavoro successivo, riguarda altre epoche e altri continenti, Scott ha mostrato non solo quanto possa essere stata forte la resistenza contadina, ma anche i suoi effetti storici visibili, eventi cruciali come la diserzione di massa dell'esercito russo, cioè dei disertori dall'esercito russo, nella prima guerra mondiale, la sua conseguente disintegrazione dell'esercito, che poi, appunto, ha innescato la rivoluzione di ottobre, devono essere intesi come esempi su larga scala di una resistenza innescata non da ragioni ideologiche, ma da una semplice volontà di sopravvivere, dice. In particolare questo autore che si chiama Scott, di cui stiamo parlando, ha descritto l'economia morale dei contadini, virgolette, no? Economia morale, un'etica della sussistenza né immutabile né ostinatamente irrazionale, questi sono i pregiudizi soliti, no? Ma una risposta locale alle avversità, compreso anche lo sfruttamento umano. Al centro dell'economia morale c'è l'enfasi su quelle che Scott definisce altrove le piccole decenze del lavoro, le piccole decenze della famiglia, le piccole decenze della comunità, il desiderio di un minimo di autonomia e di controllo del proprio ambiente, che per andare al brano che leggevo prima da Furore sono anche quelle della famiglia Jod, no? Perché il protagonista del romanzo sono questi, sì, questa famiglia di dicevo prima, di braccianti che si spostano, no? Dall'Oklahoma in California, e vengono appunto proprio, tra l'altro, cioè adesso non lo diciamo così di sfuggita, ma Steinbeck aveva tutto un metodo di lavoro anche che doveva, appunto, che era debitore, ecco, anche di una serie di discipline, in particolare la scuola di Palo Alto, penso io adesso, no? Nuove scuole di sociologia, ecco, non più positiviste, più, ecco, diciamo così, empiriche. Comunque, andiamo adesso tanto lontano. Anche nelle descrizioni, insomma, quando ci si immerge nella lettura di questo romanzo, i protagonisti appunto fanno trasudare, diciamo, queste piccole decenze, no? Tutta una serie di, cioè anche incazzarsi proprio in maniera furibonda, anche le donne, ma perché? Perché era stato violato quel confine che non serve, chiaramente, per loro non serve neanche dirlo, no? Ma che normalmente la società industriale, la società si imposta, appunto, che si impone del capitalismo, che poi è diventato finanziario, ma comunque che là era già, chiaramente, là in California era sempre una punta di diamante, no? Quindi sono cose che poi qua noi capiamo adesso col senno di poi, ma che era, annientava questo genere di soglie, no? Chiamiamole ancestrali, ecco, soglie che erano di questa cultura contadina millenaria. E penso che già un 6-7 minuti che parlo, io manderei anche due brani, è così, ecco. Bene, allora volevo ovviamente annunciare che stiamo ascoltando questa band e che anche abbiamo ascoltato due brani in precedenza tra i vari interventi. Loro sono gli Obiezione ed è una band di Trieste, e questo loro, diciamo, CD uscito nelle scorse settimane è comunque una band, diciamo, in parte storica, perché nei primi anni 90 fecero uscire una demo tape, una cassetta, ma ora, così, negli ultimi mesi, dall'inizio del 2005, questa band si è un po' riesumata in parte e alcuni componenti hanno deciso di riprendere tutto in mano e hanno fatto uscire, come ho detto prima, i primi di agosto, fine luglio, questo CD che si chiama No Power Can Kill Use, e loro sono gli Obiezione di Trieste, e anche c'è una piccola sfumatura nella bassa goriziana. Comunque rimaniamo all'ascolto di questi Obiezione. A te prima, barone, che hai fatto nerbare la gente dai tuoi campieri. A te, prete del diavolo, che hai succhiato l'anima. A te, ricco e pulone, che non puoi scappare nemmeno, tanto sei grasso del sangue del povero. A te, sbirro, che hai fatto la giustizia solo per chi non aveva niente. A te, guardiaboschi, che hai venduto la tua carne e la carne del prossimo per 2 tari al giorno. Allora, questa qua è, un saluto anche da parte mia, questa così invettiva è un breve stralcio dalla novella Libertà di Verga. E, appunto, visto l'argomento principale così della serata, mi è tornata alla memoria questa novella. Anche perché un aneddoto, all'inizio degli anni 80, in un liceo di provincia, insomma, io era tra i primi giorni di scuola di questo liceo di provincia, e la prof di lettere, come prima lezione dell'anno, prima liceo appunto scientifico, ci ha letto a voce alta la novella Libertà, che insomma è molto dura, diciamo, cioè racconta di questa rivolta contadina avvenuta nel 1860 a Bronte, un paese della Sicilia, le pendici dell'Etna, una rivolta che durò 3 giorni, dove vennero saccheggiati i beni appunto della nobiltà, massacrati i nobili stessi, ma non solo i nobili, gli amministratori, i possidenti, i professionisti, quindi tutta, diciamo, la classe dominante viene fatta a pezzi appunto dai contadini. E questo perché? Perché era il periodo, no? 1860, appunto l'impresa dei mille, no? Garibaldi, e così l'enfasi, insomma, cioè la speranza, diciamo, portata anche dai garibaldini era quella della terra a chi la lavora, no? E poi in realtà la terra, cioè nemmeno i garibaldini, insomma, chiaramente non poteva essere etero diretta la terra a chi la lavora, e non hanno dato la terra, e quindi ci sono state queste rivolte, e difatti rivolte appunto derivate da queste promesse tradite. E difatti poi ci sarà una violenta repressione di questa rivolta, anche di altre, ma rimaniamo su Bronte, e da parte proprio di Bixio, che viene inviato da Garibaldi e attua questa violenta repressione con la condanna a morte, così, anche con leggerezza, di 5 persone. E dopo una detenzione nel carcere di Catania, insomma, ci sono diverse descrizioni. Allora, tra l'altro, una cosa che colpisce anche che Bixio appunto tratta in maniera amorevole i suoi soldati, cioè li tratta come un padre tratterebbe i suoi figli, però non si fa nessuno scrupolo di ammazzare, di condannare a morte appunto i contadini rivoltosi. Allora, su questa novella qua ci hanno fatto la testa come un cesto. No, la mia prof era una tipa in gamba, no, ci ha fatto leggere questa roba, ci ha letto questa cosa in maniera quasi traumatica e ci ha subito buttati dentro, diciamo, sì, ci ha subito fatto prendere posizione, chiesto subito che cosa ne pensavamo, che cosa ci evocavano questa narrazione. Ma anche attualmente ogni tanto nelle scuole superiori fanno questa roba del verismo, eccetera, quindi viene sempre presa come una roba reazionaria, una roba, insomma, che condanna così gli atti di rivolta. Ma in realtà forse, magari, cioè Verga, vabbè, non credeva, diciamo, nella rivoluzione, però la violenza, l'incisività delle sue parole ribaltano, diciamo, anche le sue intenzioni. E infatti sentite cosa dice Bakunin. Cosa domanda il popolo? Il popolo domanda la terra e la libertà, niente di più. Ma riflettete su cosa significano queste parole. Il popolo domanda la terra, tutta la terra, ciò che vuol dire rovinare, spossessare e annientare la nobiltà. E ai nostri giorni non solo la nobiltà, ma anche una importante parte dei mercanti e dei culacchi che vengono dal popolo, che beneficiano di nuovi privilegi, che sono divenuti a loro volta grandi proprietari, non meno detestati dal popolo e, per quanto possibile, ancora più oppressori dei grandi proprietari d'altri tempi. Il popolo domanda la libertà, una libertà che sia veramente una, cioè piena e intera, la qualcosa significa che bisogna distruggere l'amministrazione e tutto l'esercito, che bisogna abolire lo Stato. Ora, senza Stato, non vi sono sovrani possibili. E da là si arriva a questa conclusione, che per fare qualcosa di serio e in grado di dare soddisfazione al popolo, l'imperatore e tutta la sua dinastia devono, insieme a tutto lo Stato, andare al diavolo. Home. Quindi siamo nell'ultima, diciamo, parte, l'ultimo blocco su questa vicenda qua di stasera delle rivolte contadine. Poi appunto passeremo ad altro. Quindi fonte di pratiche di resistenza concreta al dominio, all'industrializzazione, alla tecnologia spinta, o meglio insegnamenti, diciamo, da cui trarre spunto, perché comunque, come dire, sono come fuori dal radar, ecco, non so come dire, in ombra, ecco, in qualche maniera. Noi cerchiamo di illuminarle in qualche maniera, perché sono state delle forme di resistenza, non sono state momenti di incoscienza o nostalgiche o piccolo borghesi, ecco, soliti minestroni, no, che ci si trova davanti in certe, ecco. Adesso usciamo dalla questione italiana. Oltre le Alpi, naturalmente il Cinquecento è stato un secolo di grandi rivolte contadine. Non parliamo del Medioevo, ma comunque sì, del Basso Medioevo, dove appunto ce ne sono state a Iosa di Jacquerie, ma continuano e esplodono nel Cinquecento, no? In Germania, soprattutto nel mondo tedesco, dove troviamo anche delle testimonianze con le richieste precise, dice sempre questo articolo su Nonntag, appunto, e anche da cui possiamo anche giudicare che non erano proprio riconducibili schematicamente solo a riforma luterana, no? Erano proprio genuine, ecco, richieste precise sulla servitù della gleba, ad esempio, su altre cose si rifacevano, certo, a quel mondo di diciamo eresia religiosa lì, però erano dico coniugate, ecco, a una realtà concreta di resistenza, di contrasto al dominio. Ultimo appunto blocco, dicevo, volevo avvicinarmi a qui e da dove trasmettiamo, al Friuli, e purtroppo qui le forme appunto di protesta non abbiamo testimonianza diretta dei protagonisti, dobbiamo rifarci alle fonti della controparte, no? Adesso io volevo andare, se riesco, a leggervi una paginetta che riguarda il Giovedì Grasso del 1511, la famosa Trudel Zobbia Grassa, dove appunto scoppiò una enorme rivolta in tutto il Friuli contro i dominanti, ecco, i signori, le famiglie nobiliari. L'anno 1511 fu un anno terribile, la peste fece più di 6.000 vittime, un terremoto colpì duramente la patria del Friuli e anche il castello di Udine rovinò. La confusione era tale e lo stato delle informazioni sui movimenti del nemico, scusate, siccome ho saltato un paragrafo per... Il nemico sarebbe, il nemico, ecco, erano, dicevamo prima, tante volte si equivoca sul fatto che le rivolte contadine sono eterodirette, no? Dalle varie fazioni, dal potente che vuole sostituirsi al potente di turno, eccetera. Quindi nella fattispecie c'era questo Savornian, Antonio Savornian, che voleva così coagulare, servirsi, ecco, strumentalizzare la rivolta contadina per spodestare diciamo quelli che c'erano al potere in quel momento da queste parti. La confusione era tale e lo stato delle informazioni sui movimenti del nemico così generico che non fu difficile ad Antonio Savornian, come racconta in una sua cronaca intitolata Notizie di guerra del tumulto udinese e morte di Antonio e Niccolò Savornian, il canonico agostino di Colloredo, non fu difficile ad Antonio Savornian raccogliere circa 2000 contadini a Caprigli, ovvero Chiavris, e farli entrare in città la mattina presto del giorno 27 febbraio, Zobbia Grassa o Giovedì Grasso. Il Savornian aveva detto ai contadini che i signori si erano alleati ai tedeschi e che avrebbero consegnato la patria a essi e tolta a San Marco. Egli e i suoi amici Niccolò Chiribin, Niccolò Zanni de Cortona, Francesco Iannis de Tolmezzo, Rizzardo de Fontanabona, Zuan Francesco Torso, Odorico Susanna, già avevano incitato i poveri della città a dare una mano ai contadini e avevano diffuso una lista dei nobili. Queste sono tutte le casade suspette e rebelle, tutte le casade de Colloredo, eccetto Messer Camillo e quelli de Mels, tutti gli strassoldi, eccetto Messer Zuanne, le casate degli Candidi, le casate degli Gorghi, tutte le casate de Zucco, Cucagna e Partistagno, le casate de Bertolini. Immediatamente all'ingresso dei contadini in città, armati alla buona, paura e furore, corsero per le strade. Chi non aveva niente da temere perché povero, uscì subito dai tuguri in cui abitava e per vedere e per partecipare e per rubacchiare quel che poteva. I nobili tutti, Guelfi o Ghibellini, Zamberlani o Strumiri, per l'impero o per Venezia, si tapparono in casa, chiusero con le spranghe i portoni e armarono servi e gente fidata. La marea invase gli spazi liberi e, correndo tumultuosa ma senza danno lungo le case modeste, con tutta la sua schiuma e la sua violenza sbatté contro i portoni delle case dei toriani che vi erano barricati. Venne portato un cannone delle Cernide, cioè della polizia, delle guardie, e con questo i robusti portoni vennero squarciati e si corse dentro urlando, agitando falci, picche, falcetti, coltelli, mannaie. Travolti gli armati si iniziò la caccia al nobile, che abbandonando per un istante la sua alterigia si diede alla fuga, saltando sui tetti, nascondendosi nelle soffitte, sempre inseguito e braccato. Il palazzo Turiani cominciò a bruciare. Nel freddo livido del giorno di febbraio le fiamme, nitide e crepitanti, salirono al cielo, avvolgendo i dintorni di fumo. Dalle finestre piovevano cassapanche, indumenti, cibi e tutto ciò che si poteva smuovere e portar via. Per alcuni giorni le strade della città furono piene di una folla allegra e ciarliera che indossava con sussiego ironico gli abiti di seta che erano stati rubati in quelle case cui si era dato sacco. In quel giorno, portati qua e là dalle voci, dalle informazioni, dagli ordini che sobillatori e provocatori diffondevano, i contadini vagarono per la città saccheggiando 20 case della miglior della terra. Molti nobili presi vennero fatti a pezzi. Alla fine della prima giornata, mentre il rumore e le grida della folla si calmavano e ognuno cercava riparo per la notte e si sentiva solo il suono delle campane delle chiese e il lontano crepitio degli incendi e dalle finestre di vetro piombato del palazzo si vedeva l'arrossarsi del cielo per le vampate, Antonio Savornian e i suoi amici poterono trarre al caldo di un caminetto quello che a loro sembrarono le conclusioni ottimali di una spregiudicata azione politica. Scopo principale del... In realtà, a quel punto, gli interessi, dice Tito Maniacco, stiamo leggendo, in realtà a quel punto gli interessi dei contadini e quelli dei potenti divergono. Scopo principale del politico non è quello di cambiare il sistema su cui si regge la società, ma solo quello di cambiare o le tecniche di direzione o gli indirizzi politici o certi personaggi che si ritengono dannosi. Il contadino, invece, ha un interesse diverso che si evidenzia nell'azione come assolutamente contrario e divergente da quello del politico. Esso vuole cambiare la sua condizione di servitù, non vuole scegliere un signore più o meno onesto e d'animo tollerante, vuole che siano tolti i gravami, vuole un diverso uso del suolo, vuole la diminuzione delle tasse, vuole l'abolizione dei privilegi feudali. Ecco allora Lutero impaurito della plebaglia impazzita dei contadini, una volta che siano pieni e satolli e abbiano ottenuto il potere. Eccolo allora appellarsi ai signori affinché ognuno di essi percuota, ferisca, sgozzi, uccida come se fossero cani arrabbiati, chiunque possa e comunque possa, affinché siano ristabilite la pace e la sicurezza. All'alba del giorno seguente la notizia uscì dalla città, Udine, e corse per le campagne e sollevò un vento di tempesta. Bande di contadini cominciarono a riunirsi, a mormorare frasi sediziose, a muovere, armati come potevano, verso i castelli. Spirito di vendetta per secoli di angherie, miserabile condizione del momento, interesse a vedere andare alle fiamme quella parte del castello dove i pazienti Gastaldi avevano raccolto nelle loro infernali carte, tutti i debiti, tutti i documenti di contratti agrari, di affitti, di possessi, li misero in marcia. In quel momento la lotta politica, con i suoi passi felpati, con i suoi fatti regolari d'arme e di uccisioni, di trattative, di ambascerie, di trattati, di paci date o concesse e storte, le stesse sottili divisioni d'opinione e di interessi di carriera, fu spazzata via da un'ondata di ribellione troppo a lungo contenuta. Non ci furono distinzioni in quell'autentico momento della lotta fra le classi, fra zamberlani strumiri, fra imperiali veneziani. Il vento uniforme della rivolta da Udine corse sulle sue ali insanguinate e infuocate, superò il tagliamento, si diffuse in tutta la patria. Le bande armate si portavano cannoni per espugnare castelli ed erano seguite sui carri dalle famiglie che minacciavano morte e rovina a tutti i nobili. Saccheggiarono i territori di Valvasone, Zoppola, Cusano, assaltarono i castelli di Villalta, dei Della Torre, Brazzacco, Arcano, Cerniacco. Il signor di Cerneo, cronista interessato, dice che orrende sono le cose che a narrar restano. Nell'ironia dell'etica feudale cavalleresca, i nobili, rinchiusi nel castello di Sterpo, rocca cinta da acque e assai forte, de roba piena, abbassano il ponte levatoio per permettere l'ingresso a due contadini venuti avanti per parlamentare. Del tutto privi del senso della cavalleria, questi, non appena il ponte è abbassato, non si sognano nemmeno per scherzo di trattare, ma irrompono dentro, saccheggiano e bruciano fino alle fondamenta il castello. E ancora più ironica suona ai lettori di tanti secoli dopo l'indignata e offesa arroganza del nobile, che scrive come se si fosse trattato di uno scontro fra i paladini di Francia. Dirò de mi, a quali il castello nostro Cerniacco fu depredato e minato, da chi? Dai nostri massari del loco medesimo, de quali alcune non era che debitor non fusse de più de 5 fitti scorsi de resti. Evidentemente al signor di Cerneu non sfugge il fatto che il suo castello e quelli dei suoi pari siano stati assaliti proprio dai debitori. Però poi, ecco, qua ci fermiamo perché comunque in qualche maniera i principi, così i signori, si coalizzano nel frattempo e organizzano naturalmente la repressione e sferrano appunto questo attacco con tanto di truppe di ventura e massacrano, ecco, questi rivoltosi del 1511 e nonostante tutto, insomma, si è dato filo da torcere a questi Toriani, che tra l'altro, ultima cosa che dico, Palazzo Toriani già da un po' di anni qui a Udine è nient'altro che la sede della Confindustria di Udine, ecco. Quindi non è cambiato granché, ecco, nelle apparenze, neanche nell'apparenza, ecco, non è cambiato. You drown and depressed. Destructive chaos. E stiamo ascoltando questa band inglese che abbiamo anche ascoltato in precedenza durante gli interventi. Loro sono i Fantasmats, è una band londinese che comunque ha fatto uscire un album 2 mesi fa. È una band con alcuni componenti di origine brasiliana e, come ho detto, l'album è omonimo al nome della band, Fantasmats, credo si dica così. Comunque noi, diciamo, friulania, avremmo tradotto ragazzi pazzi, Fantasmats, comunque non so, Fantasmats da Londra. Sì, siamo già arrivati alle 21:13 di giovedì 28 agosto, qui appunto siamo sempre su Zardins Magnetics. Allora, in questi minuti che ci rimangono, rimbalziamo un'iniziativa, anzi due momenti, insomma, che fanno parte però della stessa iniziativa. E organizzati dalle compagne e compagni dell'Aquila, due iniziative contro la Leonardo, e chiaramente in solidarietà con la resistenza del popolo palestinese e contro il genocidio e ciò che sta succedendo a Gaza e in Cisgiordania, e anche la persecuzione dei combattenti, dei rivoluzionari palestinesi. E allora ieri, che era il 27 agosto, c'è stata all'Aquila un'assemblea aperta per appunto lanciare anche quest'altra iniziativa che si svolgerà il 12 settembre prossimo, quindi venerdì 12 settembre, e alle ore 7 del mattino un'assemblea pubblica davanti proprio all'ingresso della Leonardo SPA dell'Aquila. E vi leggo il volantino: il genocidio parte anche da qui. Blocchiamo Leonardo, fabbrica di morte, qui e ovunque. Il complesso industriale militare italiano, capeggiato da Leonardo SPA, industria controllata dallo Stato, vende armi ad Israele, utilizzate per uccidere civili a Gaza e in tutta la Palestina, oltre che in Yemen, Siria, Libano. Questa azienda lucra sul genocidio perpetrato da Israele, direttamente con la vendita di armi o indirettamente con la fornitura di altri prodotti e servizi. Il governo italiano, servo di Israele e degli Stati Uniti, è corresponsabile del genocidio. Se lo Stato italiano pretende di agire in nome nostro, allora spetta a noi tutti giudicarlo, delegittimarlo e bloccarlo quando sostiene apertamente e concretamente l'atroce massacro di persone inermi uccise dalle bombe, dai cecchini, dalla fame. Non saranno né gli aiuti umanitari né il paternalismo occidentale a liberare la Palestina. Questa iniziativa è in solidarietà con Anan e con Ali e Mansour, inquisiti dalla magistratura dell'Aquila al servizio dei carnefici israeliani, perché palestinesi. Questo, prima di essere un processo ingiusto perché criminalizza la legittima resistenza anticoloniale, è un processo che attacca dei palestinesi. La resistenza non si processa. La resistenza del popolo palestinese contro l'oppressore sionista è legittima ed è in continuità con la nostra storia, quella della resistenza europea contro il nazifascismo. Di fronte a questo crimine contro l'umanità non è possibile restare indifferenti. O si lotta contro il genocidio o si è complici. Con i lavoratori di Gaza che lanciano un grido ad organizzare giornate di rabbia e solidarietà globale nelle fabbriche e officine, nei porti e negli aeroporti, nelle strade e nelle piazze pubbliche, in sostegno della Palestina e del suo coraggioso popolo. Già i portuali in molte parti del mondo stanno dando l'esempio bloccando il traffico di armi, ma anche gli operai delle fabbriche possono dare il loro contributo, fermando la produzione. Solo la lotta popolare può portare all'autodeterminazione e alla liberazione dei popoli oppressi dalla violenza del colonialismo. Una lotta popolare necessaria anche qui per rovesciare questo sistema capitalista. Lanciamo, costruiamo, sosteniamo una forte stagione di lotta contro la guerra capitalista. Trasformiamo la guerra dei padroni in guerra contro i padroni. Blocchiamo la Leonardo fabbrica di morte, Palestina libera dal fiume al mare, libertà per Anan, Ali e Mansour. La guerra comincia anche da qui, fermiamola. Avremo modo di approfondire comunque la prossima settimana anche a che punto è, diciamo, il processo contro questi tre compagni palestinesi. Ricordiamo che Ali Mansour sono, e Mansour sono a piede libero, invece Anan è detenuto nel carcere di alta sicurezza S2 di Terni, insieme a svariati anche nostri compagni, tra cui Juan. E allora il 12-15 sarà questa assemblea pubblica all'Aquila, il 13, quindi il giorno dopo, sabato 13, invece a Ronchi di Monfalcone ci sarà un corteo sempre contro la Leonardo, questa volta allo stabilimento appunto locale di Ronchi di Monfalcone. E dico due cose anche, avremo anche su questo modo di ritornare la prossima settimana, però la prossima settimana è densa, ci saranno anche tre giornate di lotta, dibattiti e festa a Trieste. Il titolo dell'iniziativa di questi tre giorni è Zone Antifa. Praticamente giovedì alle ore 18, giovedì 4 settembre alle ore 18, quindi noi parleremo da qua, insomma non saremo là, ecco, però in piazza Perugino a Trieste ci sarà questo incontro dibattito contro il decreto sicurezza, le zone rosse, il securitarismo, e verrà presentato l'opuscolo Police Abolition con l'assemblea no decreto sicurezza. E poi venerdì, il giorno dopo, il 5 invece, saremo a Ronchi dei Legionari in Piazza dell'Unità a partire dalle ore 17:30 per un presidio e per un presidio di lancio, diciamo, del corteo appunto del 13 settembre contro la Leonardo e in generale l'industria delle armi. E questa iniziativa, insomma, a Ronchi sarà organizzata dall'Assemblea Non Leonardo. E poi sabato 6 settembre invece sempre di nuovo a Trieste, a San Giusto, a partire dalle ore 16 ci sarà un approfondimento dal titolo Sabotare la guerra, quindi dibattiti vari a partire dalla guerra ai migranti, con la presentazione dell'opuscolo Deportazioni, riflessioni per attaccare gli ingranaggi del razzismo di Stato, curato dall'assemblea No CPR. Poi la guerra parte da qui, appunto, ancora un rimbalzo ulteriore su Leonardo, il riarmo, il genocidio in Palestina con l'assemblea contro la guerra di Trieste, e infine anche un approfondimento sulla guerra sui corpi con la presentazione di testi sulla fascistizzazione sui corpi e più laboratorio per persone flinta curato dalla Smarza TFQ di Trieste, appunto, e poi a seguire festa. Quindi insomma ribadiremo tutte queste cose, ma era giusto per intanto dare notizia di questi prossimi eventi in zona. E niente, sì, allora prima di tutto adesso ci sarà metteremo una canzone, una ballata mi viene da dire, anche come stile, e contro Leonardo, appunto, una ballata di un compagno che l'ha creata e ce l'ha inviata, e quindi noi adesso la mettiamo in onda, appunto, ringraziando Alejandro che l'ha realizzata. all'ospizio di Borgia. Arrivò a Gradisca nella nebbia, con carboncino e carta sporca. Disegnò dighe per l'Isonzo. Inonderò la valle intera per fermare l'armata turca. Morte troppo amaro. Sulla riva un profumo strano, olio di motore, metallo lontano, un lampo bianco tutto svanì, nel futuro oscuro lui cadde lì. Si sveglia in una fabbrica gelida, ali di metallo, che meraviglia, progetti sui muri, tram, firefly, caccia o dono mai in Arardana. Quelle ali che sognai per volare, orizzonti di morte fanno creare. Urta una macchina, un ronzio parte, l'occhio rosso, il drone. L'orrendo, fermate i danni, finestra in frantumi, vola nel vento sotto l'aeroporto di Trieste, un jet ruggisce, lui alza la testa, l'insegna al neon, Leonardo è questa. Svenuto nel fango sogna Gorizia, maestro la diga è finita, grida l'apprendista, si alza di scatto, straccia i progetti, basta strumenti di crudeli diletti. Meglio mendicare pane e vino che costruire strage col mio destino. Gli storici dicono lasciò Borgia quel giorno per studiare i fiori e il corpo intorno. Scrive nel codice con mano tremante, maledico chi usa il mio nome per morte galoppante. Leonardo è vita, non crudeltà. E stiamo ascoltando in sottofondo questa band francese, esattamente di Bordeaux, da un loro album datato proprio 2025, e loro sono i Bombardment. È una band che esiste da circa 10 anni e questo album si chiama Dance La Fournaise, probabilmente l'ho detto sbagliatissimo in francese, comunque loro sono i Bombardment. E siamo anche giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, anche oggi 28 agosto 2025 in diretta, trasmettiamo da Udine. E come di consuetudine alla fine proprio della trasmissione vi leggiamo i nostri contatti. Se volete scriverci tramite posta elettronica potete farlo scrivendo alla mail liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverlo in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ricordo anche che tutte le trasmissioni nostre le potete riascoltare tranquillamente sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, salutiamo anche chi ci ascolterà sulla web radio domani venerdì dalle ore 17. La web radio è Radiazione, perciò l'appuntamento è al prossimo giovedì. Ciao a tutti e vi lascio con un altro brano di questa band francese di Bordeaux, i Bombardment. Ciao a tutti e al prossimo giovedì.